scintillante. Ho voglia di andarmene a fare qualcosa di assolutamente pazzo e meraviglioso. Le prime battute dello spettacolo furono soffocate da scalpiccii e da altri rumorini provenienti dalle quinte. Piccoli inconvenienti che erano sintomo del crescente isterismo della compagnia dell'alloro. Questi segnali pervennero alla platea come un incoraggiamento ad aspettarsi qualcosa di imminente e straordinario, quasi che gli stessi attori sussurrassero all'orecchio delle prime file: un attimo di pazienza, per cortesia, lo spettacolo non è ancora cominciato per davvero, siamo un tantino nervosi, questo sì, ma pazientate ancora qualche istante e non rimarrete delusi. Mi trova carina? Si chiama April Wheeler e da un capo all'altro della platea la parola carina vola in un sussurro, passando di bocca in bocca. È proprio brava, dicono i più entusiasti fra gli amici degli amici. Loro sì, a conoscenza del passato di April nelle scuole di recitazione più blasonate di New York, non molto tempo prima che si trasferisse qui, in questo meraviglioso complesso residenziale. Forse ci sono delle parole più... parole migliori di questa per definirmi. Frank Wheeler, il giovanotto dal volto tondo e l'aria intelligente, che sedeva in ultima fila mordicchiandosi le nocche, sembra essere più lo spasimante che il marito e padre di due figli della bella signorina impegnata nel ruolo della protagonista. Rispondiamo alla vostra precedente richiesta di 250 integrazioni testuali in relazione a Nox 500. Siamo concordi nel ritenere la brochure in circolazione inadeguata al prestigio della macchina. Punto. Parliamo del controllo della produzione. Punto. Puntini, puntini, puntini a capo. Il controllo della produzione è... nient'altro che... l'operazione consistente nel disporre il materiale esatto nel luogo esatto, virgola, ma tenendo presente dei criteri variabili e delle oscillazioni ponderabili, punto, Nox 500, virgola, il calcolatore elettronico, virgola, con rapidità mille volte superiore svolge le attività che, virgola, seduto a tavolino con matita e foglio di carta, virgola, potrebbe svolgere un uomo. Parliamo del controllo della produzione, puntini, puntini, puntini a capo. Il controllo della produzione è, virgola, nient'altro che, virgola, l'operazione consistente nel disporre il materiale esatto nel luogo esatto, virgola, ma tenendo presente dei criteri variabili e delle oscillazioni ponderabili, punto, Nox 500, virgola, il calcolatore elettronico, virgola, con rapidità mille volte superiore svolge le attività che, virgola, seduto a tavolino con matita e foglio di carta, virgola, potrebbe svolgere un uomo. Copia per il ciclo stile. Parliamo del controllo della produzione, puntini, puntini, puntini a capo. Il controllo della produzione è, virgola, nient'altro che, virgola, l'operazione consistente nel disporre il materiale esatto nel luogo esatto, virgola, ma tenendo presente dei criteri variabili e delle oscillazioni ponderabili, punto, Nox 500, virgola, il calcolatore elettronico, virgola, con rapidità mille volte superiore svolge le attività che, virgola, seduta a tavolino con matita e foglio di carta, virgola, potrebbe svolgere un uomo. Anche solo un anno fa non sarebbe mai successo. Anche perché, se sprovvisti di altri argomenti, si poteva sempre ricorrere alla condizione spaventosa in cui versavano gli Stati Uniti. Che ve ne pare di questa faccenda di McCarthy? Chiedeva qualcuno fra di noi, e subito tutti gli altri si contendevano la parola e l'attenzione dei presenti con zelo rivoluzionario. Un fiume di parole scorso in un letto di whisky. Ciao! Oh, ciao! Ciao, paroline allegre, sbocciate al crepuscolo, ad annunciare l'arrivo di un ricevimento serale. Oh, mormorì di stanchezza ad indicare che chilometri e chilometri di sabbia ardente erano stati percorsi per raggiungere quest'oasi e che il respiro stesso fosse stato trattenuto in attesa del sollievo promesso. Qualche attimo di mutua ammirazione per poi lasciarsi andare a varie pose di... controllato collasso. Insomma, non sembra anche a te che sia questo il nocciolo della questione. Non che la bomba atomica abbia un'importanza secondaria, ma molto più delle nazioni, dei trattati di pace, della speculazione e della voglia di far soldi di questi soggetti con le targhette fuori dalle porte. Molto più del fatto che nessuno creda più a niente o a nessuno, a nessun dio, in nessun posto. Non è forse questo costante, persistente involgarimento di ogni idea e di ogni sentimento vero allo stadio di pappa predigerita? Ma come possiamo meravigliarci del fatto che tutti gli uomini della nostra generazione, dai fannulloni di bottega agli eroi di guerra, si stanno ordinatamente disponendo in fila come tanti galletti castrati? Questo costante blaterare di sicurezza, adattamento, appartenenza, ma di che cosa stiamo parlando? Mi sono fermata davanti a un programma qualche giorno fa. Sì, sì, è vero, non guardo molto la televisione, ma devo ammettere che qualche volta può essere divertente. C'era una famiglia con un numero imprecisato di figli, si chiamavano i Donaldson. Sì, qualcosa del genere. Ma perché mettono sempre gli articoli davanti ai nomi? I questi, i quelli, i quegli altri. Ogni battuta, ogni parola. La premessa di ogni cosa era che papà fosse un cretino e mamma avesse sempre ragione. Un mucchietto di gente messa lì a farsi battute, a mangiare popcorn, a darsi di gomito tra una cucina e un salotto. Salotto, cucina, cucina, cucina, salotto, salotto, cucina, cucina, salotto. Eppure la follia esiste. Non è una questione di racconti russi, fiabe italiane, i matti sono dappertutto. Siamo noi che facciamo finta di non accorgerci. Abbiamo paura di additarli per riconoscere loro qualche punto di somiglianza. Fosse soltanto una parola, un gusto, un gesto che ci mette sullo stesso piano. Un francese diceva una volta che la psicanalisi è un monologo della sanità sulla pazzia. Secondo me, quando l'ha pensato, si stava facendo una passeggiata per la East Coast. Neppure il vecchio Freud avrebbe potuto immaginare dei discepoli più fedeli degli americani. La nostra nuova religione, lo zuccherino spirituale di ogni buon abitante degli Stati Uniti, la psicanalisi. E nonostante tutto questo, guarda che succede quando un uomo perde il cervello. Chiamate la polizia, rinchiudetelo prima che svegli il vicinato. Oh, Cristo, è il Medioevo. Dateci le nostre stradine, le nostre casette dipinte di celeste, azzurro, rosa. E se per caso dovesse venire la realtà alla porta a farci boh? Gli irrigatori, Dio, come mi mandano in bestia gli irrigatori! Gli irrigatori no! Certo che avevo paura. Però quello che provavo realmente non aveva molto a che vedere con l'essere impauriti. Mi sentivo pieno di sangue, mi sentivo vivo. Ecco che cos'era. La strada, gli alberi sotto questo cielo azzurro striato di vapori. Tutte queste cose insieme mi sembravano più reali e vere che mai. Ma allo stesso modo i fucili, la maniera di marciare di tutti quei ragazzi. Ricordo che stavamo attraversando una città completamente devastata dai bombardamenti e sulla strada principale era pieno di proiettili esplosi, calcinacci, vetri dappertutto. E te lo giuro, April, in quell'istante ho pensato che fosse bella. Sì, probabilmente ero rimbecillito o impaurito come tutti, però non ricordo di aver mai più sentito la realtà così prossima. Quasi potesse sussurrarti all'orecchio: ehi, sono io. Credo di capire. Anche io ho provato una cosa del genere. E quando? Penso sia stata la prima volta che ho fatto l'amore con te. Ehi, sono io. Dico sul serio, Frank. Sei la persona più interessante che abbia mai conosciuto. Ci torcevamo dalla soddisfazione. Noi, dolorosamente vivi, nel cuore di una società intossicata e morente. Sì, sì, sì, cervelli senza meta. Rumore senza suono, forma priva di sostanza. Quando il regista aveva chiesto di far decollare per davvero questo spettacolo, tutti i membri della compagnia dell'alloro avevano accettato di raddoppiare le prove. Dopotutto stiamo fondando il teatro di una comunità, mi sembra una cosa abbastanza importante. Il guaio è che tutti, fin dal principio, erano stati preda della paura di rendersi ridicoli e avevano aggravato questa paura con la paura di ammetterla. Nonostante tutte le prove, tutte le attenuanti del caso, lo spettacolo rimaneva statico, un fardello dal peso insopportabile, e avevano cominciato a scorgere l'uno negli occhi dell'altro la prospettiva del fiasco. Non vede come sono inutile? Lasci che le pulisca il tavolo. Il virus del disastro, in minacciosa incubazione per tutte quelle settimane, si era fatto ormai vivo, attivo sul palco. Gli spettatori uscirono a fumare per l'intervallo, raccolti in gruppettini imbarazzati, studiavano gli avvisi sulla bacheca e si asciugavano i palmi sudati sui calzoni o le gonne di cotone. Nessuno voleva rientrare per il secondo atto. Eppure, tutti lo fecero. Anche la giovane avvenente protagonista iniziava a perdere slancio, battuta dopo battuta. Cominciò ad alternare gesti melodrammatici a fasi di contratta immobilità. E il rossore dell'umiliazione salì dal collo e le invase tutto il volto. Non le piacerebbe che io l'amassi? Il fatto era che Frank Wheeler, per tutto il pomeriggio, intontito da quello che lui amava definire come il lavoro più cretino che si possa immaginare, aveva tratto vigore dalla proiezione mentale di immagini che avrebbero dovuto aver luogo quella stessa sera. Lui che torna a casa per una cena anticipata con la moglie, per giocare con i bambini prima di lasciarli alla babysitter, il viaggio verso il liceo adibito a teatro per l'occasione e la coscia tesa di April sotto la sua mano. Oh, se solo non fossi così nervosa, tesoro! Sedersi in platea, lui affascinato, orgoglioso, balzare in piedi per unirsi all'applauso scrosciante, lui acceso e scapigliato, farsi spazio tra la folla giubilante per ricevere il primo bacio commosso di lei. Davvero, non era male. Davvero, niente male, tesoro. Fermarsi in un bar a parlare della serata e a bere qualcosa, essere riconosciuti da qualche coppia di amici desiderosi di passare un po' di tempo con loro, solo un po', mentre gli Wheeler si tengono la mano sotto il tavolo. Vieni. Ciao. Ciao. Un minuto e sono pronta. Sì, sì, fai con calma. Ti aspetto. Come ti senti? Beh, direi che non è stato proprio un successone. Direi di no. Non ci pensare. Infatti. Posso chiederti un favore? Certo. Puoi dire agli altri della compagnia che torniamo a casa? È che April li ho visti qua fuori e ho detto che ci saremmo trattenuti. E di che non possiamo, di che è per via della babysitter. No, che li ho visti proprio in questo istante e ho detto che... Senti Frank, non lo so che cosa hai detto. Puoi riferire questa cosa per me o devo fare da sola? No, no, va bene, certo, non ti agitare. E sai che ti dico? Eri l'unico personaggio vivo di tutto il dramma e non sto scherzando, dico davvero. Dico sul serio. Ah sì? Sì. Ti ringrazio. Semplicemente non avremmo dovuto lasciare che ti trascinassero in questa maledetta faccenda, ecco tutto. Vorrei soltanto mettere le mani su quel tale, quel regista, com'è che si chiama? Non è stata colpa sua. Tutta la banda allora. Dio sa se facevano schifo. Il fatto è che avremmo dovuto tenere gli occhi aperti fin dal primo momento. Io avrei dovuto tenere gli occhi aperti, questo è il punto. Tu non saresti mai entrata in quella maledetta compagnia se io e Campbell non ti avessimo convinta. Avremmo dovuto darti retta, una manica di imbecilli, dicevi. Va bene, adesso non potremo piantarla di parlare di questa storia. Certo che sì, certo. Vorrei soltanto che tu... che tu non ci restassi male. Ecco tutto. Va bene. Va bene. Non succederà. Infatti. April, mi dispiace così Frank, tanto. Smettila. Senti. Piantala. E basta. È che io ho come l'impressione che tu stia esagerando un po'. Ti ho chiesto di lasciarmi in pace. Non mi sembra una richiesta impossibile da rispettare. No, non è impossibile, ma stupido. Dannatamente stupido questo tuo atteggiamento. E stupida questa tua richiesta. Insomma, mi sembra che tu stia facendo davvero un gran bel pezzo alla Madame Bovary. Ma non ho granché voglia di ascoltare un altro atto dello show. E ci sarebbero un paio di cose che vorrei chiarire, April, e vorrei farlo subito. Vuoi un elenco? Numero uno. Non è colpa mia se la rappresentazione faceva schifo. Numero due. È certo come la morte che non è colpa mia se tu non sei riuscita a diventare un'attrice. E prima la pianterai con questo melodramma, e meglio sarà per tutti e due. Numero tre. La parte del marito suburbano, sordo e insensibile, April, non è la mia parte. E se hai anche cercato di affibbiarmela dal primo momento che siamo venuti a vivere qua giù, io ti... April! Senti, non so proprio che cosa vuoi dimostrare con tutto questo, e penso che non lo sappia nemmeno tu, però una cosa la so. So che tutto questo io non me lo merito. Tu sei sempre così straordinariamente sicuro di quello che ti meriti, quello che non ti meriti. Perché non sei rimasto a casa stasera? Invece di venire qua, con questa faccia, da manichino deluso seduto in ultima fila, pronto a risvegliarsi soltanto per rinfacciarmi qualunque cosa gli sia passata per la testa negli ultimi 8 anni. Non pensare di cavartela così a buon mercato, sai, rivoltando tutto quello che dico. Guarda caso, questa è una delle poche situazioni in cui so di non essere nel torto. Lo sai che cosa sei quando fai così? Cosa, amore mio? Sei malata. Una povera pazza da ricoverare. Non sto scherzando. Guardati. Guardati un momento, Frank. Fallo con i miei occhi se con i tuoi non riesci a vedere. E poi dimmi se anche con tutta la buona volontà del mondo tu riesci ancora a definirti un uomo. Mr. Wheeler, le ho portato il materiale delle precedenti brochure. Negli schedari ho trovato le bozze che mi aveva chiesto, più i riferimenti tecnici. Signorina... Mi ci è voluto non poco tempo per venirne a capo. Signorina Grub. Da 11.04 a 11.09, sì, mancano le ultime 6 o 7 schede, ma parlando con la signorina Jorgensen è venuto fuori che... Ha letto il giornale? Ma appena un'occhiata, non ho avuto molto tempo. C'è un articolo di commemorazione per Dylan Thomas. Le piaceva? Il poeta? Sì. Non ne so molto, solo che avesse una certa familiarità con il bicchiere. Ah. Senz'altro. Mi fu detto, ragiona con il cuore. Ma il cuore, come la mente, è un'inutile guida. Mi fu detto ragiona con il polso, ma quando affretta altero il passo delle azioni finché il tetto e la strada si livellano uguali. Così rapido fuggo sfidando il tempo, calmo gentiluomo che dimena la barba al vento egiziano. Comunque il materiale che mi ha chiesto non è completo. E sto aspettando dalla filiale di Toledo che mi diano quelle altre informazioni. Povera Maureen, l'ho costretta a una mattinata di lavoro nell'archivio. Mr. Wheeler, è il mio lavoro, ci mancherebbe. No, era il suo lavoro fino alle 13. Ora sono le 14.30 e lei non avrà avuto modo nemmeno di fare pausa. No, in effetti no, stavo giusto perché andando... Perché non si accomoda un momento? Prego. Sa che la prima volta che sono entrato qui dentro era con mio padre. Anche lui lavorava alla Knox. Non è buffo? Suo padre? Sì. Non ne sapevo nulla. Beh, in effetti non ne parlo molto volentieri. Ad ogni modo avevo circa 9-10 anni. Era per una colazione di lavoro con l'amministratore, un certo Hotfields. Colazione un corno. Si mangiò una bistecca grande quanto tutto questo tavolo e ci costrinse ad ascoltare i suoi deliri per un'intera mattinata. Papà era in corsa per una specie di promozione, ma restò a Newark a fare il commesso viaggiatore fino ad ammalarsi. Che storia triste. La storia di tutti, Maureen. Niente di speciale. Sa cos'è davvero triste? Oggi compio 30 anni. Catch a boat to England, baby. L'odore della scuola nel buio. Matite, mele, colla per rilegature. Inglewood, New Jersey. Passo tutto il tempo libero a elaborare un piano per raggiungere la costa occidentale in treno merci. Ho studiato sulla cartina una serie di itinerari alternativi. Scelgo il mio abbigliamento migliore nella vetrina di un negozio militare. Giacca e pantaloni di jeans, camicia color khaki e spalline, stivali da lavoro con rinforzo sotto la suola in acciaio e il tacco. Bello? Dici a me? Faccio le prove di come potrei comportarmi nella giungla di vagabondi che dovrò incontrare. Provo una serie di angolature della mascella. Sarò gentile, sarò educato, ma se dovessi menare le mani io sono pronto. All'inizio rimasi lì seduta. Era la cosa più stupida che potessi fare e poi fu troppo tardi. E scivolo via di soppiatto dal banco e mi precipito fuori dall'aula. Corro davanti allo sguardo attonito di 30 ragazzi e ragazze e svanisco nel corridoio, in quel silenzio da incubo. Mi cadono tutti i libri, allora li raccolgo e mi cadono di nuovo e li raccolgo e... Su un treno merci? Wheeler? Vuoi proprio dire un treno merci? Mi fai morire, Wheeler! Krebs biascica il mio nome, come se non l'avesse mai sentito. Eppure è seduto al banco accanto al mio da circa 3 anni. Gesù, Wheeler, di nuovo, mi fai morire, Wheeler. Ma quanta strada pensi di poter fare tu su un treno merci? Ma dove ti vengono tutte queste idee così geniali? Al cinema, vero? Forse. E mi precipito fuori con una macchia di sangue grossa come una foglia d'acero sul dietro della gonna di lino bianco. Allora mi riparo con le mani e arrivo davanti all'infermeria. Mi volto, c'è una scia puntinata e irregolare di macchioline di sangue in corrispondenza dei miei passi. Non me la sento, non ce la faccio ad entrare e chiedere che cosa mi sta succedendo. Allora mi sfilo il golfino, me lo leggo sui fianchi, ma sento il rumore di qualcuno che si sta avvicinando verso di me. Allora prendo la prima porta che vedo ed esco fuori sul prato soleggiato e mi dirigo verso casa. Qualcuno mi sta guardando da dietro le finestre. Ora, dalle 100 finestre, potete solo indagare che commissione io sto svolgendo. Ve lo potete chiedere con i vostri nasi schiacciati sulle vostre finestre panoramiche, perché io sto camminando qui, ora. Sai che ti dico, Wheeler? Sai perché tutti pensano che tu sei un idiota? Te lo dico io. Perché tu, Wheeler, sei un idiota. Ecco perché. Casa dei signori Wheeler. Mia madre mi ha parlato molto di voi. I giovani Wheeler di Revolutionary Road o i giovani rivoluzionari di Wheeler Road. Bel posticino. Deve essere costato un mucchio di quattrini mettere su una bella casetta come questa. So che avete anche 2 bambini. Immagino li avrete portati da qualche amichetto, avete la mia approvazione. Immagino che un povero pazzo fulminato non sia il massimo come frequentazione. Proprio un mucchio di quattrini. Lei, Frank, è avvocato. Perché a me farebbe proprio comodo un avvocato. Avrei un paio di cosucce da dibattere con la res pubblica. Ah, no. Lei lavora in quella ditta di macchinari, quella che produce calcolatori. E pensare che la matematica è sempre stata la mia specialità, almeno fino all'elettroshock. Dovevano portarsi via le visioni e i problemi emotivi, invece si sono portati via solo la dannata matematica. Ci seppellirete tutti, Frank, a noi matematici, lei e i suoi calcolatori. Deve essere proprio un lavoro insensato e stupido. Vorrei chiederle, ma perché diavolo lo fa? Ma credo che funzioni proprio così, giusto? Si procede per gradi. Se vuoi una casa devi trovarti un lavoro, ma se vuoi mettere su una casa carina, una maison délicieuse, devi trovarti un lavoro che non ti piace. E chiunque ti venga a chiedere ma perché lo fa, perché lo fa, puoi star sicuro che è in permesso di 4 ore dal manicomio statale. Ma se ho capito bene, se la vecchia Helen non parla a sproposito e non ci giurerei, ve ne andate da questo paradiso. Il vuoto disperato presente in ogni cosa di questo paese. Sulla costa occidentale, con i ragazzi dell'università, rimanevamo alzati a parlare tutta la notte di cose come questa. Parlavamo del vuoto, sì, ma nessuno di noi ha mai avuto il coraggio sufficiente per chiamarlo disperato. Frank, devo parlarti, devo dirti delle cose molto molto importanti per me. Prima di tutto volevo dirti che mi dispiace tantissimo per come mi sono comportata in questi giorni, dal giorno di quel maledetto spettacolo. È un modo per dirmi bentornato. Va bene, sì, accetto le tue scuse. Un momento ancora. Questa mattina, quando sei andato via, io ti ho guardato, ti ho spiato dalla finestra panoramica. Avevi l'aria derelitta, Frank. Hai guardato la nostra casa come se fossi una belva pronta a sbranarti. E io mi sono sentita sola, terribilmente in colpa. E ho cominciato a chiedermi, ma se non è di Frank la colpa, perché anche lui è una vittima, allora di chi è? Di chi è la colpa? Vittima? Ma vittima di che? Ma di questo mondo grottesco dove siamo finiti a vivere, Frank. Lo stesso dei Davidson, dei Wingate, quelli che erano accanto a te domenica e applaudivano come tanti idioti senza capire. Sì, non credo che c'entri niente il signor Donaldson. Infatti, la colpa è mia. È sempre stata mia e io oggi posso spiegarti come tutto questo è iniziato. Come può essere? Non mi interrompere. E mi sei mancato. Mi sei mancato tantissimo oggi. Ho anche pensato di venirti a trovare al lavoro. Poi ho creduto che non fosse il caso. Allora sono andata in città perché io oggi volevo festeggiarti. Io volevo comprarti un regalo. Te ne sei ricordata? Solo che avrò girato almeno 30 negozi diversi e in ognuno c'era una Kate o una Betty lì pronta a consigliarti il profumo per il tuo uomo, oppure la cravatta per il marito rispettabile. Oddio, Frank, scusa, non ce l'ho fatta. Era tutto così uguale, ordinario. Allora sono tornata a casa e mi sono messa in cucina per tutto il pomeriggio e ecco, io sono riuscita a fare questa piccola torta, ecco, per te. Scusa, anche per questo. La voce di Jennifer era la più acuta. Si scosta i capelli dal volto, cantando dondola avanti e indietro sulle punte. April è l'unica a non stonare sulla nota più alta. Tanti auguri, papà. Ma anche Michael ce la sta mettendo tutta e il suo, fra tutti, è il sorriso più grande. Sono stata io. Sono stata io, Frank. Io posso dirti dove tutto questo è iniziato, tutto questo grande bluff a cui io ti ho costretto. Com'è che dicevi l'altra sera? Il marito suburbano, sordo, insensibile. È stato quando eravamo ancora in Beton Street, quando sono rimasta incinta di Jennifer e ti ho parlato della mia idea di volermi liberare di lei, sì. Di abortire, insomma, ecco. Nessuno di noi due lo voleva questo bambino, Frank. Tu almeno quanto me. E poi sono andata a comprare quella siringa di gomma come a dimostrarti la mia forza, la mia capacità di agire, di dirti: bene, lo vuoi questo bambino? Allora la responsabilità sarà tutta tua. Da oggi in poi ti farai in quattro per badare a noi e dovrai rinunciare a qualsiasi altra cosa al mondo che non sia essere un padre. Se avessi un intero anno a disposizione senza nient'altro a cui pensare, io comunque non riuscirei a riconoscere e districare la quantità di emozioni che sto attraversando in questo istante. Più che rivolte a me, le sue parole sembrano rivolte a una qualche romantica astrazione. Ma che stia recitando o no, la voce di April, quando è in vena di tenerezze, ha un suono dolcissimo. La rivoltante illusione, non c'è un altro nome. L'idea che messa su famiglia uno debba rinunciare alla propria vita, a darsi un contegno, il sentimentalismo piccolo borghese, Frank. E poi avevi ragione. Questa ridicola pantomima dell'attrice che non ha potuto sfondare perché si è sposata troppo giovane. Frank, io non solo volevo rovinarti l'esistenza, io volevo che questo cerchio di mostruosità si chiudesse e fossi tu a fare la figura di quello che aveva rovinato la mia. È spaventoso, ma è vero, è vero, è tutto vero. L'intera giornata in preparazione a questi istanti di autoumiliazione. Eppure c'è una profonda convinzione nella sua voce, la convinzione di usare le sue carte onestamente e fino in fondo, con tutti i rischi del caso. Dobbiamo farlo, Frank. Non possiamo più rimandare. Partiamo. Cosa? Sì, mi sono informata. Lo sai quanto guadagna una segretaria, una semplice impiegata in un ufficio non governativo in Europa? No. Ho fatto anche dei conti dai soldi che metteremo da parte dalla vendita della casa e tutti i nostri risparmi dell'autunno, Frank. Ho comprato anche un piccolo opuscolo di francese. Sì, beh, così tu potrai rispolverare quello che già conosci e una sera di queste iniziare a ripeterlo a voce alta, così lo imparerei anch'io. Frank, te lo ricordi? Te lo ricordi che cosa mi dicevi di Parigi? No. L'unico posto in cui valga la pena vivere. Me l'hai detto tu, Frank. Sì. Me l'hai detto tu quando ci siamo conosciuti. April, aspetta un secondo. Tutta questa storia è veramente molto, molto carina. Non è affatto carina. Va bene. Non è carina. Qualsiasi cosa sia. È veramente, veramente poco realistico. Poco realistico? Sì. Poco realistico? Poco realistico è che un uomo dalla mente brillante continui a lavorare tutti i giorni per anni come un cane nello stesso ufficio del padre, un ufficio che non sopporta, e la sera torna a casa da una moglie che non sopporta e che come lui è incapace di sopportare le stesse cose che lui non sopporta. Questo è poco realistico. L'altra sera quando eravamo da quei Davidson, Donaldson, è possibile che non ricordi il nome? Va bene, hai iniziato uno dei tuoi discorsi sull'America, l'istruzione, i nostri figli. Mi ricordo di che cosa ho parlato. Mi sembrava che non mi stessi ascoltando, anzi mi sembravi molto annoiata. E lo ero, Frank. Io ero annoiata a morte, lo sai perché? Perché sono stanca. Stanca di questi discorsi privi di fondamento dove sguazziamo tutti quanti come maiali. Io ti guardavo l'altra sera e mi chiedevo: Cristo, ma perché non la smette di blaterare? La premessa di ogni tua parola, anzi, la premessa di ogni nostra parola o azione è che noi siamo qualcosa di diverso e superiore agli altri. Ma non lo siamo, Frank, non lo siamo, guardaci. Siamo identici a tutti quelli che noi disprezziamo. Noi siamo gli americani del supporto. April, le cose non sono solo bianche o nere, va bene? Non è colpa tua se sono andato a lavorare alla Knox. E poi chi ti dice che per me non sia lo stesso? Che tutta questa storia non sia soltanto una specie di scusa per non prendere le cose fino in fondo? Frank. Chi ti dice che io fossi destinato a diventare una specie di pezzo grosso? Frank! Io non so neanche cosa voglia dire un pezzo grosso, ma se vuoi sapere chi è che pensa che tu abbia una mente brillante, beh, la risposta è tutti. Tutti? Sì, quando io ti ho conosciuto tutti. Ah, io ero un bugiardo dalla lingua lunga, avanti, che ha letto qualche libro e te l'ha ripetuto. Va bene. D'accordo. Siamo arrivati a questo. Che non hai più un briciolo di fiducia in te stesso. No. Va bene, non sto dicendo che fossi un completo idiota. Ma di gente in gamba la Columbia ce n'era. E questo non vuol dire che io fossi destinato a diventare una specie di Harry Ford o un nuovo Melville. Non ce n'erano tanti come te, Frank. Come si chiamava quel ragazzo, quel pilota di caccia sempre pieno di donne? Bill Croft. Diceva sempre: se avessi la metà del cervello di Wheeler, io non dovrei preoccuparmi di niente. Ed era sincero. Tutti sapevano che tu potevi diventare o essere tutto quello che volevi, a patto che tu avessi avuto il tempo di capirlo. Frank, è arrivato questo momento. Il momento che tu puoi avere il tempo che non hai mai avuto a disposizione. Va bene. Sì, ammettiamo che ci sia qualcosa di vero in tutto questo. Questo tuo piano avrebbe senso se io avessi una qualche qualità specifica, constatabile. Se io fossi un pittore, un artista o uno scultore. Ma davvero? Tu credi che soltanto gli artisti possano vivere le loro vite? Frank, ascoltami. A me non importa se passerai i prossimi 5 anni a non fare nulla. E magari alla fine di questi 5 anni scopri che vuoi diventare un meccanico o un marinaio. Quello di cui sto parlando io non ha niente a che vedere con qualità constatabili, come le chiami tu. Io sto parlando della tua essenza, che è rimasta soffocata. La vita che stiamo vivendo qui non fa altro che negare quello che tu sei veramente. E cioè? Ma come? Non capisci? Proprio non capisci? Tu sei la cosa più speciale e meravigliosa che possa esistere al mondo. Tu sei un uomo. Immaginare che cosa mi hanno detto quei due ragazzi. Gli Wheeler. Ma sì, dai, quella coppia di ragazzi a cui ho venduto quella meravigliosa casetta in Revolutionary Road. E pensare che sembravano dei ragazzi così equilibrati. Insomma, ho allungato la strada di un paio di isolati per andarli a trovare e portargli un po' di barba di Giove per il giardino. Quel giardino. Sempre stato così sguarnito. la signorina April mi viene incontro, gentile come al solito, mi offre del tè, facciamo un po' di conversazione e mi accenna a un certo viaggio in Francia che vorrebbero fare. Solo dopo un po' che parlavamo ho capito. Chiede, secondo me, quale potrebbe essere la valutazione attuale della casa e io, non saprei, ma potrebbe restarvi utile per quando tornerete. E lei, no, non abbiamo alcuna intenzione di tornare. E io, hanno trasferito Frank in Europa, hanno deciso di lanciare una nuova linea oltreoceano. E lei, no, nessun lavoro. E io, non sapevo che aveste dei parenti in Francia, una bella ricongiunzione familiare. E lei, no, nessun parente. Avresti dovuto vederla selezionare le cose da portare via insieme ai bambini. Insomma, mi fa, non conosciamo nessuno, ce ne andiamo. Tutto qui. Tutto qui? Tutto qui, Howard. Io non sapevo che cosa pensare, sono impallidita, ma tu te la immagini la mia faccia, Howard? Howard, cioè, gente che non ha nemmeno un dollaro in banca, con i bambini ancora a scuola, partire per l'Europa. Non lo so, la gente non le fa queste cose. La gente non fa queste cose a meno che non debba scappare o nascondersi da qualcuno. Io non so che pensare, Gesù. E pensare che gli sposini fanno la fila per venire qui a crescere i loro bambini. E così ci pianti. Tagli la corda, te la batti. Bel colpo, Frank. Bel colpo. Deve essere divertente guardarci mentre facciamo la fila in banca, mentre trasciniamo i piedi fino allo sportello, con le mani giunte come tanti maialini da latte in attesa della mammella libera. Rimanere sempre cortesi, ma aiutarsi a vicenda, scivolare oltre per non incrociare lo sguardo di chi, come te, è in attesa del suo stipendio. E poi prendere l'assegno, piegarlo, metterlo nella tasca interna della giacca, garantirsi sempre la riservatezza economica, mai rivelare a nessuno quanto prendi, anzi, quanto ti danno. Deve essere divertente pensare che è l'ultima volta. Certo, c'è soltanto una cosa che ora su due piedi è che non so proprio cosa ti vedrei a fare laggiù. Voglio dire, ammettiamo, come dici tu, che la tua aspirazione se ne sia nascosta da qualche parte ad aspettarti. Quello che mi chiedo è, ma non la potresti trovare anche qui? Oh mio Dio! E quando l'avreste deciso? Tesoro, devo proprio dirtelo, questa faccenda degli Wheeler mi sembra una cosa abbastanza azzardata. Anzi, diciamolo per come merita, è una gigantesca immaturità. E siete riusciti a dirci niente per tutto questo tempo? E ai bambini, lo avete detto? Tesoro, lo credo anch'io. Non voglio dire niente, sia chiaro, ma io ho pensato la stessa cosa. Ho pensato, ma che idea immatura! Meraviglioso! Meraviglioso davvero! Ma che razza di uomo è uno che si fa mantenere dalla moglie? Ma quale uomo se ne starebbe seduto mentre la sua signora riporta a casa il pane? Oh, certo! Sentiremo la vostra mancanza. La sentiremo come? Non è vero, tesoro? Oh, certo che ci mancherete. Sono così contenta che sia tu a dirlo. Io ho pensato la stessa cosa, ho pensato, ma che razza di uomo è un uomo che mi solleva che sei tu a parlarne. Ti amo anch'io. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Missiva per il signor Franklin H. Wheeler, mittente Bartolomeus Pollock, sede centrale. Jennifer? Abbiamo ricevuto la stampa ciclostilata del prospetto. Parliamo del controllo della produzione, pervenutoci tramite la sua segretaria, la signorina Grub. La nostra richiesta di una brochure adeguata al prestigio del Knox 500 è stata oltremodo soddisfatta, ben oltre le nostre più rosee previsioni. Tesoro, Potresti regalare la giraffa e i coniglietti a Madeleine. Mi sembra un gesto davvero molto carino, non trovi? Il linguaggio tecnico della brochure da lei propostaci è ben più conforme alla tipologia del prodotto. La sintesi, la linearità del messaggio emergono chiaramente dalla prima riga fino all'ultima. Ma c'è dell'altro. È molto tempo che pretendiamo ostinatamente dai nostri uffici affiliati che si occupano di promozione uno scarto qualitativo, di uscire dalla trita e ritrita logica della didascalia e della reclame del mezzo elettronico. In altre parole, chiediamo una componente indispensabile quanto rara nel nostro settore: l'umanità. Gianni, pensi veramente di portarti via tutte queste cose? Alcune sono veramente difficili da imballare. La casa delle bambole, il cavallino ad ondolo di Michael. Nel suo lavoro, signor Wheeler, abbiamo trovato la conferma che questa nostra pretesa non sia campata in aria. La chiarezza ben si sposa con la confidenza, quasi che l'incitamento all'acquisto finisca per suonare come un fraterno consiglio. Per citare l'inventore della calcolatrice, Blaise Pascal, spirito di finezza e di geometria coesistono soltanto nell'uomo della provvidenza. Jenny? La attendiamo per una colazione di lavoro domani stesso, io e il suo capo ufficio Ted Bundy, per conoscerci meglio e valorizzare questo potenziale che soltanto adesso ci siamo accorti di avere fra le mani. Chissà che non sia proprio lei il nostro uomo della provvidenza. Jennifer! Bartolomeus Pollock, sede centrale. Apri le orecchie e cerca di ascoltarmi per una volta. Ho detto solo le cose che si possono imballare. Ah, non ti va di preparare il tuo bagaglio, eh? E neanche a me va di ripetere la stessa cosa per la decima volta ad una bimba così sciocca che non mi vuole ascoltare. PS, detesto il mio nome per esteso, ma è necessario per le firme ufficiali. Mi chiami Bart. Frank? Che succede? Puoi dare un'occhiata a tua figlia, per favore? Jennifer, che c'è? Mi dispiace che se la sia presa. Io le ho soltanto detto che non può portare in Europa tutta l'assenza dei giochi. Jenny, andiamo! Sono andata in città e quando sono rientrata avevano ridotto le stanze un disastro tutti e due. Certo che tutta questa storia della partenza per i ragazzi non deve essere facile. La supereranno? Sì, la supereranno, certo. Possiamo fargli lo sgambetto, spezzargli le gambe. La supereranno lo stesso. La supereranno, Frank, perché loro sono i nostri bambini e noi siamo i genitori. Si tratta solo di decidere chi comanda. Non sto mettendo in discussione. Perché se comandano loro, allora un giorno di questi noi ci potremo mettere, non so, a dipingere di rosa tutto il salotto. Oppure un altro giorno potremo invitare a pranzo l'uomo ragno. Michael sarebbe davvero molto felice. E perché no? Domenica potremmo andare tutti quanti insieme a fare un bel picnic con la macchinina a pedali parcheggiata in giardino. No, April, aspetta un momento. No, Frank, aspettati. Ma se siamo noi genitori, se non altro perché abbiamo 25 anni più di loro, non dobbiamo fare altro che prendere decisioni, comunicarle ai nostri bambini e fare del nostro meglio perché loro siano felici. Infatti io non sto mettendo in discussione. E allora perché dobbiamo discuterne? Che succede? Che succede? Che c'è? Niente. Non ti credo. Niente. Niente che non sapessi già da tempo. Sono incinta, Frank. Non fare quella faccia. Non mi dire che non l'avevi capito. Scusa. Scusami, non te lo volevo dire così. Mi dispiace. Sono una scema. Mi dispiace, Frank, mi dispiace. Non è successo niente. No. Non è successo niente, vero? No. Non è successo niente di irreparabile. Perché? Irreparabile. Perché no? Noi siamo ancora in tempo. Fino alla 12ª settimana noi siamo in tempo. C'è tempo, noi siamo ancora in tempo, non è successo niente, 12ª settimana, non è successo niente, noi siamo in tempo, vero? La capacità di suddividere il tempo ci offre una quasi inesauribile forma di consolazione. April! April! Arriva tuo padre, ha chiamato e sta arrivando da Boston. Ma non correre, April! Hai tutto il tempo del mondo, ha chiamato ed è ancora lì, arriverà per pranzo. Sincronizzare gli orologi, dice il comandante. Non ci sono fino alla fine del mese, dice il dirigente. Non fare bambinate, questa volta April, non fare bambinate, non fare bambinate, non fare bambinate. Il borghese quadrante dell'orologio ha ricreato, seppure per un brevissimo istante, l'illusione del controllo personale. Ma come sei cresciuta? Proprio una bella signorina. Ma entriamo, April, non voglio prenderti per mano davanti ai tuoi fidanzatini, che cosa penserebbero? Vediamo un po', dice l'anziano signore. La mia prima moglie se n'è andata nel 1900. Socchiude gli occhi, si porta la testa fra le mani per cercare di ricordare, e per un attimo è invaso dal terrore. Lui non ricorda 1902, 1903, 1908. Era la primavera di che anno? E che cos'è la primavera se non un'insensata ricomposizione di cellule sulla faccia della Terra? E che cos'è la Terra in confronto all'universo? L'universo, l'infinito. Lo guardo dai piedi fino a salire su alle mani e ai polsini. Ah, è così tutto ben organizzato. Ogni movimento ne richiama un altro. Mi trattengo solo qualche minuto. Mi aspettano per un pranzo di lavoro a Boston. Sono passato solo per un salutino. 1904? Ma sì, era la primavera del 1904. Lui ricorda benissimo. Probabilmente non ricorderà il volto della sua prima moglie o il suono della sua voce mentre piangeva, ma imponendo una serie di numeri alla sua morte, egli ha imposto un ordine alla sua vita e alla vita in assoluto. Sì, era la primavera del 1904. Senti il profumo dell'erba nuova, e da stasera le stelle lo affascineranno nuovamente. Ha messo ordine nel caos. Nemmeno un regalo? Lasciami guardare là dentro. Nel cassettino, tesoro, ma è pieno di cianfrusaglie. Ah, allora magari cerchiamo nella... Allora, una alla camicia, le calze, la sciarpa, vediamo. Ma che rabbia! Un uomo non dovrebbe mai andare in giro senza una manciata di braccialetti o di collanine. Può sempre capitare di incontrare una dolce bambolina. April, ma quello è whisky. Mica ti vorrei prendere la mia bottiglia di White Horse? Ah, ti piace il cavallino sul tappo? Signor Wheeler, ma che ne è di questo avvocato che mi aveva promesso? Anche un povero pazzo avrà diritto ad un buon difensore. Aspettavo sue notizie, mi aveva detto che si sarebbe prodigato per la mia causa. Ma sì, sì, sì, immagino che i preparativi per la partenza siano stati particolarmente impegnativi. Sì, sì, sì. E poi la vecchia Helen mi fa: sai, John, i Wheeler non partono più. April è incinta. Frank ha un nuovo lavoro. Carino qua, carino là, tolte di mele, pratino all'inglese, bla, bla, bla, bla. One moment, please, Mr. Wheeler. C'è qualcosa, qualcosina, che non mi torna del tutto. La mogliettina è incinta. Congratulazioni. Per caso in Europa hanno smesso di fare figli? O sarà una faccenda di soldi? E i soldi sono sempre un ottimo motivo, ma... Ma ci deve essere dell'altro. Che forse la donnina ha deciso che è meglio giocare alla casetta, che le piace l'abitino premaman? No, no, non è la ragazza il problema. Lei è forte, ha carattere. Allora deve essere lei, Mr. Wheeler. Cosa è successo? In fin dei conti, non sono tutti dei perfetti idioti a Manhattan. C'è anche gente simpatica nella nostra bella costa ovest. Ah, com'era? Com'era il vuoto disperato? Tutto sommato, n'est pas très méchant. Che gentiluomo che si è scelta April. Un capo famiglia first class. Certo che pure lei deve avergli reso la vita un vero inferno, se metterla incinta è l'unico modo rimasto per dimostrare di avere un paio di coglioni. Vi siete scelti proprio bene. Scusate l'ironia. Un povero scemo che dice quello che gli salta in testa. Spero che non vi siate offesi di tanta schiettezza. Mi dispiacerebbe. E in effetti, non ho granché da essere contento. Forse solo una cosa. Sono contento di non essere quel bambino. È stato un periodo molto difficile. Ci vorrà un po' di tempo per abituarci, ma io sono convinto che abbiamo fatto la scelta giusta. Certo. Ce la faremo. Stavo pensando, Frank, che tu hai una morale molto più forte della mia. Credo sia per questo che ti ammiro. Non capisco che cosa c'entri accettare di avere un bambino con la morale. Morale in senso convenzionale, intendo. Morale e morale in senso convenzionale non sono la stessa cosa. Perché, Frank, io credo di non capire. Senti, non sono stato io a mettere in mezzo la morale. L'hai fatto tu. Io penso soltanto che questa sia l'unica cosa davvero matura da fare. Ecco. Un'altra volta, vedi? Tu dici matura e io non so che cosa vuol dire. Tu potresti parlarmene tutta la notte, io comunque non riuscirei a capirlo. Sono soltanto parole per me, Frank. E io sì, ti ascolto parlare ogni tanto e mi chiedo, ma lui davvero crede in tutto quello che dice? E lo sai, è tutta la vita che mi succede, con tutti. Allora, se funziona così, se succede così, allora è in me che qualcosa non va. Ma forse è meno grave di quel che sembri. Hai mai pensato che ci possano essere delle cose non proprio consce? Qualcosa che abbia a che vedere con l'infanzia che hai avuto. Stai ipotizzando che io sia emotivamente disturbata? No, io non sono qualificato per dirlo. Però è possibile che tu abbia sempre covato una qualche specie di rifiuto della femminilità, del tuo ruolo di madre. Franco, ma io ho avuto due figli. Non è questo un dato che gioca a mio favore? Ma già che ne parli in questo modo, è un chiaro segno. Avere due figli come credito da spendere per evitare di averne un altro. Senti, io voglio soltanto che tu stia bene. Il tuo atteggiamento non è stato granché razionale ultimamente. Ammettiamo che io abbia una sorta di schema compulsivo. Che cosa dovrei fare? Farmi visitare? Uno strizzacervelli? Uno psicanalista, non un cialtrone. qualcuno con cui tu possa parlare. E sarà il nuovo lavoro che ti ha offerto Barpollock a pagare tutto questo. Bene. Credo che non ci sia altro da aggiungere. Tu credi davvero che per me sia tutto così semplice? Sinceramente sto pensando anche io di andarmi a fare due chiacchiere. Sì, non la vedo una cosa per cui ci si debba vergognare. E visto che ci siamo, April, io devo dirti una cosa. Una cosa davvero importante. Ho avuto una relazione. Sì, ho avuto una relazione con una donna dell'ufficio. Siamo stati insieme un paio di volte, però adesso è tutto finito. Non te ne avrei mai parlato altrimenti. Perché? Tesoro mio, io non so, non lo so. Sarà stata tutta questa faccenda dell'aborto o semplicemente perché volevo ristabilire la figura maschile tra noi. Io non so perché è successo. Ma non ti sto chiedendo perché l'hai fatto. Perché me lo dici, Frank? Vuoi farmi ingelosire? Vuoi che torni a letto con te? April, perché per una volta non dici quello che pensi? Lo sto facendo. No. E la verità è che io non penso niente. Niente? No. Così non ti importa niente di quello che faccio, di quello che non faccio o di chi mi porto a letto. Esatto. Ma io voglio che ti importi. Ma io lo so. Ma vedi, Frank, a me importerebbe se io ti amassi, ma io non ti amo. April, tu ti rendi conto che sei completamente fuori di testa, vero? Certo, certo. Bene. Certo, perché nel tuo mondo funziona così. Se non mi ama vuol dire che è pazza, perché la follia è una sorta di incapacità di amare, vero? No, no, dici male, perché tu mi ami e questo è il punto. No, Frank, il punto è che io mi sono sbagliata, ecco. Tanto tempo fa io mi sono fidata di un ragazzo che mi ha fatto ridere ad una festa. Frank, tu potevi essere un gran divertimento per qualche settimana, qualche mese. Ma tutti questi anni. Ma di che cosa stai parlando? Non ti avvicinare, Frank, non ti avvicinare. Perché se fai un altro passo io mi devo mettere a strillare. April, per favore. Fermati! Maledetta! Che cosa vuoi fare, Frank? Eh? Cosa vuoi fare? Mi vuoi picchiare per dimostrare quanto mi ami? No! Non penso proprio che me ne prenderò il disturbo, sai? Tu non vali la fatica che ci vorrebbe a farti. Tu non vali la polvere che servirebbe a farti saltare in aria. Ma perché? Perché vivi qua dentro se mi odi così tanto? Perché vieni a letto con me? Perché ti porti nella pancia mio figlio? Perché? Adesso ti dico una cosa, April. Io vorrei tanto che tu te ne fossi sbarazzata. April. April. April, aspetta! Se vuoi fare qualcosa di onesto nella vita, qualcosa di vero, devi farla da solo. Ascoltare ogni parola, assecondare ogni simpatica battuta di quel giovane brillante e ripagare questo dolce piacere con innocenti bugie fino a dire quello che l'altro desiderava sentirsi dire. Hai ragione, mi dispiace, questa cosa l'affronteremo insieme, dovresti essere soddisfatto. Un'esistenza portata avanti in maniera zelante, ma sciatta e pretenziosa. Un'interminabile sfilza di tentativi mandati a vuoto, senza concedersi mai il più onesto dei Non ce la faccio. Ho paura. Qualunque cosa accada, Frank, non dare la colpa a te stesso. Credo di aver afferrato il suo nome. Pamela? Si chiama Pamela? No, Pamela è laggiù. Mi chiamo April. Come, scusi? April. Frank. Ashanté. Cosa fa Frank? La sto conoscendo. Voglio dire, nella vita. Ah, nella vita. Sì, nella vita faccio... Faccio lo scaricatore di porta. Ah, e non sto no. scherzando. Sul serio. Guardi qua. Anche se... April, no? Sì, non credo che lei sappia riconoscere la differenza tra una vescica e una ruga. Però dalla settimana prossima avrà un lavoro migliore. Ah, cassiere bene. Notturno in una tavola calda. Meraviglioso. Ma io non le sto chiedendo questo. E quali sono i suoi interessi? Beh, dolcezza. Se io conoscessi davvero la risposta a questa sua domanda, sono certo che nel giro di una mezz'ora annoierei a morte lei e anche me. A love once knew has now.